Gentili ascoltatrici e ascoltatori, eccoci di nuovo insieme. In tre trasmissioni esamineremo il Nuovo Testamento per verificare se ci sono delle prove che Cristo fosse presente al tempo dei patriarchi. Per dare compattezza alla nostra ricerca, ancora una volta facciamo un breve riassunto di ciò che abbiamo preso in considerazione nelle trasmissioni precedenti. L'Antico Testamento attribuisce alla divinità di Israele e dei cristiani tre nomi: Adonai, Elohim, Yahweh. Mentre il termine Adonai è un nome comune plurale, cioè signori, mentre il termine Elohim è un nome generico plurale, cioè di, il tetragramma Yahweh è il vero nome proprio di una persona. Yahweh è il nome che il Creatore si è dato ed ha rivelato per la prima volta a Mosè. Perciò noi dobbiamo dire che la fede dei santi dell'Antico Testamento non era in un Elohim vago, in una divinità sconosciuta o in un Dio come noi lo intendiamo oggi, ma la loro fede era riposta in Yahweh, in una persona che era la loro divinità. Abbiamo pure considerato, alla luce della rivelazione di oggi, che la divinità che si è rivelata ad Israele è pluripersonale, cioè in essa vi sono più persone. Lo dimostrano i nomi al plurale Elohim e Adonai e la struttura stessa della Torah, cioè della legge di Dio. Gli israeliti, prima della diaspora, credevano in una divinità espressa al plurale, e che l'espressione di questa pluralità fosse in Yahweh. Abbiamo pure osservato che Yahweh ha caratteristiche antropomorfiche, cioè che ha un corpo, che ha caratteristiche antropopatiche, cioè possiede dei sentimenti, e che si è rivelato nella persona dell'Angelo dell'Eterno. L'Angelo dell'Eterno era l'immagine sostanziale di Elohim, la persona nella pluralità della loro divinità alla quale l'essere umano può accedere. Abbiamo concluso la nostra ricerca nell'Antico Testamento constatando come esso sia la storia o l'Evangelo di Cristo. Questo particolare mette la fede cristiana in una posizione assolutamente unica nella storia delle religioni, perché essa non è nata solo 2000 anni fa, come molti pensano, ma si perde nella notte dei tempi. Proprio perché la fede cristiana è il proseguimento della fede ebraica, Giovanni il Battista identifica in Gesù il tetragramma e Gesù Cristo stesso afferma di essere Yahweh con l'espressione «Io sono». Queste riflessioni mettono in evidenza che quando nella scrittura incontriamo il nome proprio di Dio, Yahweh, dobbiamo scorgervi la persona di Gesù Cristo. Questa verità, in certi ambienti, viene anche accolta, ma molti cristiani hanno difficoltà ad accettare che quando leggiamo il nome proprio di Dio, esso si riferisca solo alla persona di Cristo, e non anche al Padre o allo Spirito Santo, oppure alla Trinità. Mi rendo conto che stia diventando sempre più intellettualmente rispettabile confessare le incertezze invece di affermare le certezze, e che non essere esclusivisti abbia il vantaggio di non crearsi degli avversari. Ma da quando abbiamo studiato è molto difficile giungere a conclusioni diverse. È vero che sia la persona del Padre sia lo Spirito Santo sono Dio, ma non dobbiamo confondere le tre persone della Trinità. Altrimenti, dal momento che Gesù è Dio, il Padre è Dio e lo Spirito Santo è Dio, potremmo concludere che in croce sia morto il Padre o lo Spirito Santo. Yahweh è una delle tre persone della Trinità, cioè Gesù Cristo. Lo scopo di questo studio è rendere chiara a chiunque tale conclusione. Gesù, affermando di identificarsi con Yahweh, non si limitò esclusivamente ad esprimersi con l'Io sono. Egli più volte ha inteso far comprendere anche in altro modo questa verità nelle varie conversazioni tenute con i giudei. Ascoltiamo una di queste. Gesù disse: «Voi investigate le scritture perché pensate di aver per mezzo di esse vita eterna, ed esse sono quelle che testimoniano di me. Ma voi non volete venire a me per avere la vita. Io non prendo gloria dagli uomini, ma io vi conosco, che non avete l'amore di Dio in voi. Io sono venuto nel nome del Padre mio, e voi non mi ricevete. Se un altro venisse nel suo proprio nome, voi lo ricevereste. Come potete voi credere? Voi che prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da Dio solo? Non pensate che io vi accusi presso il Padre. C'è chi vi accusa, Mosè, nel quale avete riposto la vostra speranza. Infatti, se voi credeste a Mosè, credereste anche a me, perché egli ha scritto di me. Ma se non credete ai suoi scritti, come crederete alle mie parole?» I giudei leggevano ogni giorno le scritture, credevano in queste. Non vi scorgevano però la persona di Gesù Cristo. Essi sostenevano di credere a Mosè e quindi nel Dio che si era a lui rivelato. Secondo Gesù, però, essi erano falsi perché non credevano in lui. Credere a Mosè significa credere alla testimonianza che i suoi scritti contenevano riguardo Cristo. Dobbiamo anche riconoscere che non solo i giudei avevano un velo che impediva loro di vedere la persona di Cristo nell'Antico Testamento, ma anche i discepoli di Cristo. Essi avevano ascoltato il Maestro per quasi 3 anni, eppure la loro mente era ottenebrata e il loro cuore incredulo. Ascoltiamo la lettura nel Vangelo di Luca al capitolo 24. «Allora egli disse loro: O insensati e tardi di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno detto. Non doveva il Cristo soffrire tali cose e così entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano». I discepoli sulla via di Emmaus non vedevano il Cristo. Per far comprendere loro ciò che stavano vedendo, Gesù iniziò a spiegare i passi che nell'Antico Testamento facevano riferimento alla sua presenza. Cominciando dalla Genesi, egli percorse tutti i libri storici. Chi di noi sarebbe in grado di fare ciò? Ascoltiamo ancora la lettura sempre nel Vangelo di Luca, al capitolo 24. Al versetto 24, ciò che Gesù disse: «Queste sono le parole che vi dicevo quando ero ancora con voi, che si dovevano adempiere tutte le cose scritte a mio riguardo nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi». Gesù, richiamando a tal proposito i salmi, intendeva non soltanto il libro che è indicato con questo nome, ma anche i cantici della Torah e i Nevim, i profeti, Giosuè, Giudici, Samuele, i libri dei re, il libro di Isaia, di Geremia, di Ezechiele e i profeti minori. Gesù affermava così la sua presenza negli eventi storici del popolo di Israele. Alcune famose espressioni di Gesù acquistano quindi un significato nuovo alla luce di quanto stiamo considerando. Ecco cosa disse nel Vangelo di Matteo, il capitolo 23. «Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi coloro che ti sono mandati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto». Come si spiega che Gesù abbia voluto molte volte raccogliere i figli di Israele per proteggerli, se il suo ministero è durato solo 3 anni? Ciò che stava dicendo non era forse un po' esagerato? L'affermazione di Gesù risulta chiara solo se Yahvé è il Cristo, che più volte, con la sua presenza fisica, ha invitato gli ebrei a mettersi sotto la sua protezione. Il libro del Deuteronomio, al capitolo 4, è molto esplicito. Ascoltiamo. E perché ha amato i tuoi padri? Egli ha scelto la loro progenie dopo loro e ti ha fatto uscire dall'Egitto con la sua presenza, mediante la sua grande potenza. Con questi discorsi Gesù attestava ciò che abbiamo considerato. L'Antico Testamento testimonia, in un modo evidente, la sua presenza. I profeti hanno testimoniato di lui. Chi dunque non crede a ciò che è scritto nella Torah non può credere a ciò che Gesù afferma, giacché egli non fa altro che confermare ciò che è testimoniato nelle Scritture. Le affermazioni di Gesù non potevano non colpire i giudei, perché in definitiva egli stava affermando: voi leggete ogni giorno le Scritture perché pensate che esse vi diano la vita eterna, ma non vi rendete conto che esse non fanno altro che parlare di me. In definitiva, Gesù stava asserendo d'essere egli stesso il soggetto oggetto dell'Antico Testamento, e che l'Antico Testamento stesso non fosse altro che il racconto della sua vita, il Vangelo, la buona notizia della sua presenza. Ridurre la presenza di Cristo solo a quanto contenuto nelle profezie, nelle tipologie o nei riti, significa eliminare il centro del messaggio della parola di Dio. Per comprendere la portata di quest'ultima affermazione, dobbiamo fare un paragone. Mentre i musulmani ancora oggi recitano «Non c'è Dio all'infuori di Allah e Maometto il suo profeta», noi possiamo dire, in riferimento a Gesù, «Non c'è Dio all'infuori di Yahvé e Yahvé è il suo profeta». Gesù è l'annunciatore di se stesso o, se vogliamo, la password di se stesso. La presenza di Cristo è dunque reale e corporea in tutto l'Antico Testamento. Possiamo rinvenirla sia nel nome della divinità di Israele, cioè Yahvé, sia nell'angelo di Yahvé, sia nell'angelo che precedeva e seguiva il popolo. Chi ha questa comprensione delle Scritture ha maggiore possibilità di comprendere il Nuovo Testamento. Noi pensiamo che il Nuovo Testamento sia facile da comprendere, ma non è possibile dare adesso una giusta interpretazione, sia storica che linguistica, se non abbiamo una giusta base dottrinale fondata sull'Antico Testamento. Non ci resta, cari ascoltatori, che mettere tutto il nostro impegno a studiare l'Antico Testamento e soprattutto la Torah, cioè i primi 5 libri della Bibbia. Che tutti possiamo prendere sul serio questa sfida, perché lo scopo della vita di un credente è crescere nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Io vi lascio chiudendo con una preghiera che trovo nella parola di Dio. Ora colui che può salvaguardarvi da ogni caduta e farvi comparire davanti alla sua gloria irreprensibili e con grande gioia, all'unico Dio sapiente, il nostro Salvatore, sia gloria, grandezza, dominio e potestà, da ora e per tutte le età. Amen. Gentili ascoltatrici e ascoltatori, benvenuti al nostro appuntamento. Anche oggi prenderemo in esame la parola di Dio per considerare uno dei punti fondamentali della fede cristiana, cioè la divinità di Gesù. Sono profondamente convinto, cari ascoltatori, che non è possibile per un figlio di Dio professare con efficacia la sua fede in Gesù Cristo quale Signore, Salvatore Dio, se non ha compreso la presenza di Cristo nell'Antico Testamento. Per quanto mi riguarda, quando i sostenitori della religione dei Testimoni di Geova cercano di interessarmi alla loro fede, dopo pochi minuti se ne vanno, confusi, senza dare una risposta ai miei interrogativi. Nulla di particolare, ma quando dimostro loro che la divinità di Israele, che loro chiamano Geova, non è il Padre ma Gesù Cristo, entrano nella più totale confusione. Proprio perché la divinità di Cristo è evidente in tutta la Scrittura, ma specialmente nell'Antico Testamento, sto dedicando a questo tema varie trasmissioni. Nella trasmissione precedente abbiamo iniziato a leggere il Nuovo Testamento per verificare se ci sono delle prove che Cristo fosse presente al tempo dei patriarchi. Prove ne abbiamo trovate, e soprattutto quando Gesù disse che le scritture dell'Antico Testamento sono quelle che testimoniano di Lui. In questa espressione, Gesù non si riferiva ad una sua comparsa occasionale al tempo dei patriarchi, che i teologi chiamano cristofania, ma una sua presenza costante e corporale, soprattutto nel periodo dell'Esodo. Proprio per questo dato di fatto, Gesù rimprovera i giudei, dicendo le seguenti parole: «Non pensate che io vi accusi presso il Padre. C'è chi vi accusa, Mosè, nel quale avete riposto la vostra speranza. Infatti, se voi credeste a Mosè, credereste anche a me, perché egli ha scritto di me». Mosè, dunque, testimoniò della presenza di Cristo che lo accompagnava nella persona di Yahweh. Ma non solo. Proprio per un loro fatto culturale e modo di esprimersi, leggiamo più volte che gli ebrei chiamavano angelo dell'Eterno, cioè angelo di Yahweh, la presenza corporea della loro divinità. Come abbiamo già sottolineato nell'espressione angelo di Yahweh, dobbiamo ravvisare che è Yahweh che manifesta se stesso, che annuncia se stesso, facendosi vedere con caratteristiche umane. Chi scrive, chiama Yahweh usando un nome che ne definisce la funzione, cioè un angelo, in quanto annunciatore a chi gli si rivela. Troviamo la presenza corporea di Yahweh quando il popolo di Israele, nella sua uscita dal paese dall'Egitto, si trova tra il mare e l'esercito del faraone che lo insegue. Leggiamo in proposito. «Allora l'angelo di Dio che camminava davanti all'accampamento di Israele si spostò e andò a mettersi dietro loro. Anche la colonna di nuvola si mosse dal davanti e andò a mettersi dietro a loro». Vi era dunque una persona che camminava alla testa del popolo ebraico e che viene definito angelo. È evidente che questa parola evoca nella nostra mente un essere spirituale con le ali, ma simile deduzione è frutto della nostra cultura non ebraica. Stessa cosa vale per ciò che disse Yahweh sul monte Sinai al capitolo 20, quando dà delle leggi. Al capitolo 23 Yahweh fa una promessa. «Ecco, io mando un angelo davanti a te per vegliare su di te lungo la via e per farti entrare nel luogo che ho preparato. Stai attento davanti a lui e ubbidisci alla sua voce. Non ribellarti a lui, perché egli non perdonerà le vostre trasgressioni, poiché il mio nome è in lui. Ma se ubbidisci pienamente alla sua voce e fai tutto quello che dirò, io sarò il nemico dei tuoi nemici e sarò l'avversario dei tuoi avversari, poiché il mio angelo andrà davanti a te e ti farò entrare nel paese degli Amorei, degli Ittei, dei Perizzei, dei Cananei, degli Ivvei e dei Gebusei e li sterminerò. Ancora una volta, Yahvé promette di mandare un angelo. Questo angelo doveva essere ubbidito perché non avrebbe perdonato i peccati. Ora, chi è che perdona i peccati se non Yahvé? A quale voce bisogna ubbidire se non quella di Yahvé? Colui che disse che non avrebbe dato la sua gloria a nessun altro, come avrebbe potuto permettere che un essere angelico, una creatura quindi, avesse preso il suo posto? Dunque, la divinità di Israele dei cristiani promette al popolo che ha riscattato dalla schiavitù che sarebbe stato presente andando davanti a Mosè. E questo è il senso del discorso che Yahvé fece a Mosè. Quando Gesù disse che era il buon pastore e che sarebbe andato davanti alle sue pecore e le sue pecore le avrebbero seguito, non voleva forse dire la stessa cosa? Non voleva forse Gesù far comprendere ai suoi che come andò davanti al popolo di Israele, così ora va davanti a coloro che pongono fede in lui? Gesù è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Nonostante la costante presenza di Cristo durante l'uscita dall'Egitto, il popolo si ribella e si fa un vitello d'oro. Leggiamo nella parola di Dio che Mosè ritorna davanti a Yahvé e chiede perdono per il popolo. Yahvé invita Mosè a compiere la sua missione e rinnova la promessa della sua presenza. Ora va, conduci il popolo dove ti ho detto. Ecco, il mio angelo andrà davanti a te, ma nel giorno che verrò a punire, io li punirò del loro peccato. In effetti, Yahvé colpisce il popolo e in seguito ripete la promessa. L'Eterno disse a Mosè, «Va, sali di qui, tu col popolo che hai fatto uscire dal paese d'Egitto, verso il paese che promisi con giuramento ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe, dicendo, «Io lo darò alla tua discendenza». Io manderò un angelo davanti a te e scaccerò i Cananei, gli Amorrei, gli Ittei, i Perizzei, gli Ivei e i Gebusei. Sali verso il paese dove scorre latte e miele, poiché io non salirò in mezzo a te, perché sei un popolo di collo duro e non abbia così a sterminarti per via. Yahvé promette di essere con Mosè, ma promette pure che non starà più con il popolo di Israele. Mosè si costruisce una tenda fuori dall'accampamento e in quella tenda parla bocca a bocca con la divinità degli ebrei. A questo punto Mosè desidera conoscere meglio il Dio in cui aveva posto fede e lo aveva chiamato. E Yahvé promette di nuovo la sua presenza, che Mosè, del resto, dà per scontata. L'uomo di Dio diventa sempre più ardito e chiede a Yahvé di vedere la sua gloria. Ma Yahvé risponde che non è possibile vedere la sua faccia gloriosa e vivere, e lo esaudisce solo in parte. Nessun popolo ha mai avuto occasione di avere la propria divinità in mezzo a loro. Così Mosè testimonierà al re di Edom, quasi alla fine del viaggio, circa dopo 40 anni, con le seguenti parole. Ma quando gridammo all'Eterno, egli udì la nostra voce e mandò un angelo e ci fece uscire dall'Egitto. Ed eccoci ora in Kadesh, una città ai margini dei tuoi confini. Ogni pio israelita era a conoscenza di questa presenza durante il viaggio verso la terra promessa. Le preghiere dei salmisti, alla luce di queste riflessioni, quindi non possono che essere prese alla lettera. Ascoltiamo. O Dio, quando uscisti davanti al tuo popolo, quando tu marciasti attraverso il deserto? L'angelo era dunque la divinità di Israele e dei cristiani, cioè Yahvé. G Gentili ascoltatori, queste riflessioni hanno un'importanza che va al di là della sua apparenza. Ancora oggi teologi di fama mondiale negano che il popolo di Israele e Mosè abbiano avuto a che fare con Cristo, ma con un angelo, cioè un essere creato. E questo perché la parola angelo richiama alla loro mente un essere angelico. E non solo. Essi credono di trovare l'appoggio alle loro conclusioni dal fatto che gli autori del Nuovo Testamento descrivono che vi era proprio un angelo con Mosè. Ascoltiamo ciò che Stefano, prima di morire martire, riassumendo la storia di Israele, testimonia. Passati 40 anni, l'angelo del Signore gli apparve nel deserto del Monte Sinai, nella fiamma di fuoco di un roveto. Alla vista di ciò, Mosè rimase stupito di quel che vedeva e, come si avvicinava per osservare, udì la voce del Signore che diceva: «Io sono il Dio dei tuoi padri, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe». E ancora: «Quel Mosè che avevano rifiutato, dicendo: chi ti ha costituito principe e giudice, quello mandò loro Dio come capo e liberatore, per mezzo dell'angelo che gli era apparso nel roveto. Egli li condusse fuori, operando segni e prodigi nel paese di Egitto, nel Mar Rosso e nel deserto per 40 anni. Questi è quel Mosè che disse ai figli di Israele: il Signore Dio vostro susciterà per voi tra i vostri fratelli un profeta come me, ascoltatelo. Questi è colui che nell'assemblea nel deserto fu con l'angelo che gli parlava sul monte Sinai e con i nostri padri e ricevette le parole vivente per trasmetterle a noi». L'angelo al quale si riferisse Stefano non poteva in nessun modo essere una creatura spirituale con le ali, perché il roveto a parlare con Mosè fu il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, cioè Yahweh. Su questo non vi sono dubbi. Forse ciò che dissipa ogni dubbio sono le parole del profeta Isaia al capitolo 63, che espressamente dichiara la salvezza del popolo di Israele da parte di Yahweh e non tramite un angelo. Mentre il Diodati o la nuova Diodati rendono l'angelo della sua presenza li salvò, la Bibbia di Fulvio Nardoni, di Salvatore Garofalo, di Bonaventura Mariani, la Nuova Riveduta e la Bibbia Oscar Mondadori e le altre ancora traducono non un messaggero o un angelo, ma la sua presenza li salvò. Non è stato dunque un angelo con le ali a salvare il popolo dal paese d'Egitto, ma Yahweh stesso. Sono i testimoni di Geova e molti altri che negano l'intervento diretto e personale della divinità di Israele per salvare il suo popolo. Ma il loro scopo è quello di negare la presenza corporea di Cristo nell'Antico Testamento e perciò la sua divinità. Ma il Figlio di Dio, accorto e preparato, testimonierà con sicurezza e convinzione che Yahweh, la divinità degli ebrei e dei cristiani, è Cristo che ha assunto in seguito un corpo umano, fatto testimoniato in tutto il Nuovo Testamento. E questo lo prenderemo in esame meglio nella prossima trasmissione. Ciao a tutti e grazia e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e di Gesù, nostro Signore. Gentili ascoltatrici e ascoltatori, che il vostro impegno nell'ascoltare la parola di Dio sia retribuito abbondantemente con una fede incrollabile che produce quale risultato la vita eterna. In questa trasmissione prenderemo in esame alcune testimonianze che troviamo nel Nuovo Testamento in merito alla presenza di Cristo nell'Antico Testamento. Queste riflessioni che stiamo portando avanti da tempo hanno lo scopo di dimostrare che la divinità degli ebrei, cioè Yahweh, è la stessa divinità dei cristiani, cioè Cristo. Negare l'identificazione di Cristo con la divinità dell'Antico Testamento diventa fatale, come lo fu per gli ariani, dei quali i testimoni di Geova sono gli attuali e più degni rappresentanti. Le asserzioni di Gesù circa la sua presenza nell'Antico Testamento, se lette e comprese alla luce di una cultura ebraica, non sono vaghe. Prendiamo come primo esempio ciò che Gesù disse in riferimento ad Abramo. In una ennesima discussione con i giudei, Gesù asseriva di dare la vita eterna e i giudei replicarono: «Sei tu più grande del padre nostro Abramo, il quale è morto? Anche i profeti sono morti. Chi pretendi di essere?» Gesù rispose: «Se io glorifico me stesso, la mia gloria non è nulla. È il mio Padre che mi glorifica, quello che voi dite essere vostro Dio. Ma voi non l'avete conosciuto, io però lo conosco, e se dicessi di non conoscerlo sarei un bugiardo come voi, ma io lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, giubilò nella speranza di vedere il mio giorno. Lo vide e se ne rallegrò». I giudei dunque gli dissero: «Tu non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo?» Gesù disse loro: in verità io vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono». È molto triste e scorretto che i testimoni di Geova abbiano tradotto la risposta di Gesù: «Prima che Abramo venisse l'esistenza, io sono stato». Questa traduzione dimostra la malafede di questa organizzazione, perché il testo greco non permette in nessun modo di tradurre così. Davanti a questa evidente confessione di Gesù di essere la divinità degli ebrei e dei cristiani, l'organizzazione dei testimoni di Geova non aveva altra alternativa che cambiare la parola di Dio. Ma chiunque toglie dalle parole del libro di Dio, Dio toglierà la sua parte dal libro della vita. Nel capitolo 8 del Vangelo di Giovanni, Gesù afferma di essere stato visto da Abramo e di avere esistenza anteriore a quella del patriarca, vissuto circa 2000 anni prima. Vari studiosi e commentatori della parola di Dio sono perplessi riguardo a questa affermazione di Gesù, perché non trovano nella scrittura nessun elemento riferito alla persona del Cristo al tempo di Abramo. Questa loro difficoltà consiste proprio nel fatto che essi non hanno compreso che Yahweh è Cristo. Alla luce di questa verità, invece, la lettura dell'Antico Testamento è una continua rivelazione della presenza di Cristo. Prendiamo ad esempio il capitolo 17 del libro della Genesi. All'inizio del capitolo leggiamo che quando Abramo ebbe 99 anni, l'Eterno gli apparve, cioè si fece vedere. Poi, proprio nello stesso capitolo, abbiamo un riferimento nel quale Abramo parla con Yahweh e ride. Ascoltiamo. Poi Dio disse ad Abramo: «Quanto a Sarai tua moglie, non la chiamare più Sarai, ma il suo nome sarà Sara. E io la benedirò e da lei ti darò pure un figlio. Sì, io la benedirò ed ella diventerà nazioni. Re di popoli usciranno da lei». Allora Abramo si prostrò con la faccia a terra e rise e disse in cuor suo: «Nascerà forse un figlio a un uomo di 100 anni e partorirà Sara che ha 90 anni. Proprio perché è Yahweh, Gesù ha potuto affermare non solo di essere Dio, ma di essere anche colui al quale Abramo si è rivolto e ha creduto. Una simile affermazione non si è mai udita sulla bocca di nessun essere umano, neppure da uno squilibrato. Alcuni squilibrati potrebbero arrivare a dire che sono un Dio, ma nessuno ha mai affermato di essere presente alla creazione o di aver parlato con i patriarchi qualche migliaio di anni prima. Ciò che Gesù ha detto ai giudei in questa occasione, non ha paragoni, perché gli sosteneva di essere la divinità dei loro padri e per questo i giudei cercavano di uccidere. Ma Gesù rispose: Abramo non fece così. Proprio perché il loro modo di parlare e di reagire peggiorava la situazione, avendo compreso che Gesù si stava sempre più identificando con Yahweh, i giudei decisero di lapidarlo. Prendiamo ora in esame un altro brano della scrittura nel quale viene testimoniato che i patriarchi videro Gesù e non la prima persona della Trinità. Nel suo Evangelo Giovanni di tanto in tanto riporta un proprio commento di ciò che si legge nell'Antico Testamento. Ecco uno di questi al capitolo 12. Sebbene avesse fatto tanti segni davanti a loro, non credevano in lui, affinché si adempisse la parola detta dal profeta Isaia. Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? E a chi è stato rivelato il braccio del Signore? Perciò non potevano credere, perché Isaia disse ancora: Egli ha accecato i loro occhi e ha indurito il loro cuore, perché non vedono con gli occhi, non intendono col cuore, non si convertano e io non li guarisca. Queste cose disse Isaia quando vide la sua gloria e parlò di lui. Giovanni afferma esplicitamente che Isaia ebbe una prefania cristica e parlò di lui. Dove troviamo scritto che Isaia ebbe una prefigurazione del Cristo e parlò con lui? Ascoltiamo la lettura al capitolo 6 del libro del profeta Isaia. Nell'anno della morte del re Uzia, io vidi il Signore assiso sopra un trono alto ed elevato, e i lembi del suo manto riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini, ognuno di essi aveva 6 ali. Con 2 si copriva la faccia, con 2 si copriva i piedi e con 2 volava. L'uno gridava all'altro e diceva: Santo, santo, santo l'Eterno degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. Gli stipiti della porta furono scossi dalla voce di colui che gridava, mentre il tempio si riempì di fumo. Allora io dissi: Ahimè! Io sono perduto, perché sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure. Eppure i miei occhi hanno visto il Re, l'Eterno degli eserciti. Allora uno dei serafini volò verso di me, tenendo in mano un carbone ardente che aveva preso con le molle dall'altare. Con esso mi toccò la bocca e disse: Ecco, questo ha toccato le tue labbra, la tua iniquità è rimossa e il tuo peccato è espiato. Poi udii la voce del Signore che diceva: Chi manderò e chi andrà per noi? Io risposi: Eccomi, manda me. Dunque, Isaia non vide Dio Padre e non parlò di lui, come comunemente si pensa, ma vide Yahweh, quale Signore, Adonai, che l'Evangelista Giovanni identifica con il Cristo. Esaminiamo ora una ulteriore testimonianza della presenza di Cristo nell'Antico Testamento, quando egli si riferisse a Satana. In questa testimonianza Gesù si riferisse alla sua preesistenza. Ascoltiamo. Or i 70 tornarono con allegrezza dicendo: Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel nome tuo. Ed egli disse loro: Io vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di calpestare serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico, e nulla potrà farvi del male. Tuttavia, non vi rallegrate del fatto che gli spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Gesù non solo afferma la sua preesistenza rispetto ad ogni altro uomo, ma anche rispetto ad ogni essere angelico, dei quali Satana è l'autorità.